Capitolo 27. Confidenze reciproche. Marzo entrò nell'inverno come il più mite e docile degli agnelli, recando con sé giorni frizzanti, dorati ed eccitanti, ciascuno seguito da un gelido crepuscolo rosa che lentamente trascolorava in un chiaro di luna da favola. Sulle ragazze di Patty's Place stava per cadere l'ombra degli esami di aprile. Studiavano duramente e perfino Phil si dedicava anima e corpo a libri e appunti con una pertinacia che nessuno si sarebbe aspettato da lei. «Voglio vincere la borsa di studio in matematica», annunciò con calma. «Potrei ottenere con più facilità quella in greco, ma preferirei quella in matematica per dimostrare a Jonas che sono spaventosamente intelligente». «Jonas ti ama più per i tuoi occhioni bruni». «E per il tuo labbro arricciato quando sorridi, che per tutto il cervello che puoi avere sotto i riccioli», disse Anna. «Quando ero ragazza io non era considerato da signora essere un genio della matematica», intervenne zia Jamesina. «Ma i tempi, sono cambiati. Non so se è poi meglio. Sei capace di cucinare, Phil?» «No, non ho mai cucinato in vita mia, tranne un pane allo zenzero che si è rivelato un fallimento. Basso al centro e alto ai bordi, sapete com'è. Però, zia, se decido con buona volontà di imparare a cucinare, non credi che lo stesso cervello che mi mette in grado di vincere una borsa di studio in matematica mi renda capace di imparare a cucinare altrettanto bene?» «Forse», si cautelò zia Jamesina. «Io non sto deprecando l'istruzione delle donne. Mia figlia ha studiato fino al diploma, ma io le ho insegnato a cucinare prima che un professore di scuola superiore le insegnasse la matematica». A metà marzo giunse una lettera da Patty Spofford che le metteva a parte della decisione propria della signorina Maria di rimanere all'estero ancora per un anno. «Sicché voi potete rimanere a Patty's Place anche l'inverno prossimo», scriveva. «Maria e io stiamo partendo per dare un'occhiata all'Egitto. Voglio vedere la Sfinge prima di morire». «Carine queste signore, a voler dare un'occhiata all'Egitto. Mi domando se daranno un'occhiata alla Sfinge lavorando a maglia», rise Priscilla. «Sono così felice di poter restare a Patty's Place un altro anno ancora», disse Stella. «Temevo proprio che ritornassero. Allora il nostro nido felice si sarebbe rotto e noi, uccellini in plumi, ci saremmo trovati senza rifugio, di nuovo nel mondo crudele delle pensioni». «Esco a fare una passeggiata nel parco», annunciò Phil gettando da parte i libri. «Penso che quando avrò 80 anni sarò contenta di essere uscita nel parco stasera». «Che significa?» domandò Anna. «Vieni con me e lo saprai». Arrampicandosi su per il pendio, le due ragazze catturarono tutti i misteri e le magie della notte marzolina. Era calma e dolcissima, avvolta in un grande, intenso, bianco silenzio, punteggiato di piccoli suoni argentini, che puoi udire soltanto se la tua anima è in ascolto come le tue orecchie. Le ragazze scesero lungo un interminabile viale di pini che pareva immergersi nel cuore di un fiammeggiante e glorioso tramonto. «Andrei a casa a scrivere una poesia su questo indimenticabile momento, se solo sapessi come», dichiarò Phil, sostando in uno spiazzo dove una luce rosata colorava le cime verdi dei pini. «È tutto così bello qui, questa calma immensa, immota, e quegli alberi scuri che danno l'impressione di essere sempre pensosi». «I boschi sono i primi templi del Signore», citò Anna dolcemente. «Non si può fare a meno di sentirsi permeati di riverenza e di amore. Io avverto intensamente la presenza divina tra i pini quando passeggio. Anna, sono la ragazza più felice del mondo», confessò Phil all'improvviso. «Così, alla fine, il signor Blake ti ha chiesta in sposa?» disse calma Anna. «Sì, e io ho fatto 3 starnuti mentre me lo chiedeva. Non è terribile?» «Ma gli ho risposto di sì prima ancora che finisse. Avevo una tale paura che cambiasse idea e si fermasse. Sono assurdamente felice. Non credevo che Jonas si interessasse davvero a una farfallina come me». «Phil, tu non sei davvero una farfallina», disse Anna gravemente. «Se soltanto sfreghi su quella superficie frivola e scintillante, trovi un'anima cara, leale, umana e dolcemente femminile. Perché la nascondi tanto?» Oh, non posso farci nulla, Regina Anna. Hai ragione. Io non sono frivola dentro, ma c'è una specie di pelle spumeggiante che ricopre la mia anima e non posso strapparla via. Come dice la signora Poyser, io dovrei essere disfatta e rifatta parecchie volte prima di cambiare. Ma Jonas conosce il mio vero io e mi ama come sono, frivolezza compresa. E io amo lui. Non mi sono mai sentita così sorpresa in vita mia come quando ho scoperto di amarlo. Non avrei mai creduto possibile innamorarmi di un uomo brutto. È incredibile che io mi limiti a un solo spasimante, a uno di nome Jonas. Ma io intendo chiamarlo Joe. È un nome così grazioso e frizzante, non avrei mai potuto trovare un diminutivo di Alonso. E che succederà di Alec e Alonso? Oh, gli ho detto a Natale che non avrei mai potuto sposare uno di loro due. Mi sembra così buffo adesso averlo ritenuto possibile. Si sentivano talmente male che ho pianto per entrambi, ululando di disperazione. Ma sapevo che c'era un solo uomo al mondo che avrei potuto sposare. Una sola volta l'ho ritenuto possibile ed è stato facile anche. È fantastico sentirsi tanto sicure e sapere che è una certezza tua e non di altri. Pensi che sarai capace di mantenerla? Di decidermi, vuoi dire? Ah, non lo so. Ma Jonas mi ha insegnato una splendida regola. Lui dice che quando sono incerta devo fare quello che a 80 anni vorrei aver fatto. In ogni caso, Jonas decide con una velocità sorprendente, per cui sarebbe scomodo avere in casa troppi decisionisti. E che diranno tuo padre e tua madre? Oh, mio padre non dirà un granché, lui è convinto che tutto quel che faccio sia giusto. Ma mia madre parlerà, e come? Oh, la sua lingua sarà a burn come il suo naso. Ma alla fine tutto si sistemerà. Ma dovrai rinunciare a una quantità di cose quando sposerai il signor Blake, Phil. Beh, in compenso avrò lui. Ci sposeremo tra un anno, a giugno. Non sentirò la mancanza delle altre cose. Lui si laurea alla Columbia questa primavera e ha intenzione di accettare subito una chiesa missionaria in Patterson Street nei bassi fondi. Ci vedi nei bassi fondi? Ma con lui andrei anche sui ghiacci della Groenlandia. E questa sarebbe la ragazza che non avrebbe mai sposato un uomo che non fosse ricco? Commentò Anna rivolta a un giovane pino. Oh, non ricordarmi le follie della mia giovinezza. Sarò in grado di essere povera con la stessa gioia con cui sono stata ricca, vedrai. Comincerò con l'imparare a cucinare e a rivoltare i vestiti. Ho imparato a contrattare da quando vivo a Patty's Place e una volta ho insegnato a una scuola domenicale per un'intera estate. Zia Jamesina dice che rovinerò la carriera di Joe se lo sposo. Non ho il dono della saggezza, lo so, ma so anche che ho qualcosa che è molto meglio: la capacità di rendere la gente simile a me. C'è un uomo a Bolingbroke, dalla pronuncia blesa, che dice sempre cose sagge alle riunioni di preghiera. Lui dice: se non puoi brillare come una lampadina elettrica, brilla come un candeliere. Ecco, io brillerò come un candeliere. Phil, sei incorreggibile. Senti, ti voglio talmente bene che non mi riesce di farti un discorso di congratulazioni pomposo e forbito, ma sono felice, felice perché tu sei felice. Lo so, i tuoi occhioni grigi brillano di gioia per me con amicizia vera, Anna. Un giorno io avrò il tuo stesso aspetto. E così sarà per te se sposerai Roy, non è vero, Anna? Mia cara Filippa, non hai mai sentito parlare della famosa Betty Baxter che rifiutò un uomo prima che lui la chiedesse in sposa? Bene, io non ho intenzione di accettare o rifiutare un uomo prima che mi abbia chiesta in sposa. Tutta Redmond sa che Roy è pazzo di te, disse candidamente Phil. E tu lo ami, vero Anna? Io penso di sì, ammise riluttante Anna. Sentiva che avrebbe dovuto arrossire nel produrre una tale connessione, ma non arrossì. D'altro canto, lei avvampava addirittura quando qualcuno accennava in sua presenza a Gilbert Blythe o a Kristen Stewart. Gilbert Blythe e Kristen Stewart non erano nulla per lei, assolutamente nulla. Ma Anna aveva cominciato ad analizzare la ragione di quei rossori. Quanto a Roy, era chiaro che lei lo amava. Da morire? Che cosa poteva farci? Non era forse il suo ideale? Chi avrebbe potuto resistere a quegli sfavillanti occhi e a quella voce implorante? Non erano forse invidiose almeno della metà delle ragazze di Redmond? E selvaggiamente? E che meraviglioso sonetto lui le aveva inviato il giorno del suo compleanno insieme a un cesto di violette. Anna ne conosceva a memoria ogni parola. Era veramente bello nel suo genere, non esattamente a livello di Keats o di Shakespeare, ma Anna non era così accecata dall'amore da pensarlo, ma era una poesia più che buona. Ed era dedicata a lei, non a Laura o Beatrice o alla Vergine Atena, ma a lei, Anna Shirley. Sentirsi dire in rima che i suoi occhi erano come le stelle del mattino, che le sue guance avevano rubato il colore all'aurora, che le sue labbra erano più rosse delle rose del paradiso, era deliziosamente romantico. Gilbert non si sarebbe mai sognato di scrivere un sonetto sulle sue sopracciglia. Gilbert, però, sapeva capire una battuta. Lei una volta aveva raccontato una barzelletta a Roy e lui. Oh, non ne aveva capito il senso. Ricordando come ne avevano amichevolmente riso insieme lei e Gilbert, si domandò, un po' a disagio, se alla lunga non si sarebbe annoiata a vivere con un uomo che non possedeva senso dell'umorismo. Ma chi si aspetterebbe mai che un malinconico, imperscrutabile eroe sapesse cogliere il lato umoristico delle cose? Sarebbe decisamente irragionevole. Capitolo 28. Una sera di giugno. Mi domando come ci si sentirebbe in un mondo in cui fosse sempre giugno, disse Anna, giungendo dal frutteto, nel profumo e nel bagliore del crepuscolo, ai gradini della porta d'ingresso, dove Marilla e la signora Rachel parlavano del funerale della signora Coates, cui avevano assistito quel giorno. Dora sedeva in mezzo a loro, studiando diligentemente la lezione, ma Davy era seduto sull'erba alla maniera dei sarti, cupo e depresso, come se ogni forza l'avesse abbandonato. Ti verrebbe a noia, disse Marilla con un sospiro. Lo direi anch'io, ma adesso mi sembra che mi ci vorrebbe molto tempo per averlo a noia, se tutto fosse sempre così splendido come oggi. Tutto quanto è innamorato di giugno, mio piccolo Davy, perché mai hai una faccia da novembre al tempo della fioritura? Sono semplicemente stanco di vivere, rispose il giovane pessimista. A 10 anni? Povera me, che tristezza! Non sto scherzando, replicò dignitosamente Davy. Sono scoraggiato, aggiunse tirando fuori quella grossa parola con evidente sforzo. Perché? Per quale ragione? Domandò Anna sedendoglisi accanto. Perché la nuova maestra che è venuta quando il signor Holmes si è ammalato mi ha dato 10 addizioni da fare per lunedì, così domani sarò impegnato tutto il giorno e non è divertente lavorare il sabato. Malty Bowler dice che non le farà, ma Marilla dice che devo. A me la signorina Carson non piace neanche un po'. Non parlare così della tua maestra, Davy Keith. Lo ammonì la signora Rachel. La signorina Carson è una ragazza proprio carina. Non fa mai nulla che non sia saggio. Ah, questo non mi piace molto, rise Anna. Non mi sono molto simpatiche le persone che non fanno mai cose che non siano sagge. Ma io tendo ad avere un'opinione migliore della signorina Carson. L'ho conosciuta a un raduno di preghiera e ho notato che ha un paio d'occhi che non brillano sempre di saggezza. Su, su, su, mio piccolo Davy, su con il morale. Domani è un altro giorno e io ti aiuterò con le addizioni. Non guastarti questa bella ora tra luce e il buio, preoccupandoti dell'aritmetica. Bene, non lo farò, disse Davy ritornando di buon umore. Se tu mi aiuti con le addizioni, le finisco in tempo per andare a pescare con Malty. Avrei preferito che il funerale di zia Tossa fosse domani anziché oggi. Io volevo andarci perché Malty mi ha riferito che sua madre ha detto che zia Tossa era sicura di alzarsi dalla bara per dire cose terribili a quelli che sarebbero andati al suo funerale. Ma Marilla mi ha detto che non lo ha fatto. La povera Tossa giace in pace nella sua bara, proclamò solennemente la signora Lind. Non l'ho mai vista così bene prima. Prima d'ora, che diamine! Beh. Non sono state sparse molte lacrime sulla sua morte, poveraccia. I Wright erano felici di essersi liberati di lei e non posso biasimarli. A me sembra terribile andarsene dal mondo senza lasciare nemmeno una persona triste per la propria scomparsa, rabbrividì Anna. Nessuno tranne i suoi genitori ha mai amato la povera Tossa, questo è certo. Nemmeno suo marito, rincarò la signora Linde. Lei è stata la sua quarta moglie. Era solo entrato nell'ordine di idee di rimaritarsi. È vissuto solo pochi anni dopo averla sposata. Il dottore ha detto che era morto di distepsia, ma io dirò sempre che è morto per la lingua di Atossa, che diamine. Povera anima, lei sapeva sempre tutto dei suoi vicini, ma non sapeva nulla di se stessa. Beh, in ogni caso se n'è andata, e suppongo che il prossimo diversivo sarà il matrimonio di Diana. Sembra così buffo e nello stesso tempo così tremendo che Diana si sposi. Sospirò Anna, stringendosi le ginocchia tra le braccia e guardando attraverso un'apertura tra gli alberi del bosco stregato la luce che brillava nella camera di Diana. Non ci vedo nulla di tremendo, visto che è stata tanto fortunata, disse la signora Linde con enfasi. Fred Wright ha una bella fattoria ed è un giovanotto modello. Ma non è certo il selvaggio, trasandato, malvagio giovane che Diana una volta voleva sposare. Sorrise Anna. Fred è la bontà in persona. Ed è così che doveva essere. Perché volevi che sposasse un uomo malvagio? O vorresti sposarlo tu? Oh no, io non vorrei sposare nessuno che fosse malvagio, ma preferirei che lui potesse essere malvagio e che non lo fosse. Fred è buono senza speranza. Spero che un giorno o l'altro ti nasca un po' più di buon senso, disse Marilla. Marilla parlò con asprezza, era molto dispiaciuta. Sapeva che Anna aveva rifiutato Gilbert Blythe. C'era stato un gran ronzio di chiacchiere ad Avonlea intorno a questo fatto che si era chissà come risaputo. Forse Charlie Sloane l'aveva intuito e aveva trasmesso la propria intuizione come verità. Forse Diana l'aveva sussurrato Fred e Fred era stato indiscreto, ma in ogni caso si sapeva e la signora Blythe non chiedeva più ad Anna in pubblico se aveva ricevuto notizie di Gilbert. Ma le passava accanto con un glaciale cenno di capo. Anna, che aveva sempre amato l'allegra e giovanile madre di Gilbert, si rammaricava in segreto di questo. Marilla non diceva nulla, ma la signora Linde aveva fatto molte osservazioni sarcastiche ad Anna, finché, tramite la madre di Moody MacPherson, non le era giunta notizia, fresca fresca, che Anna aveva un altro innamorato all'università, ricco, bello e buono in una volta sola. Ricchi andavano sempre bene, ma persino la signora Linde, pur di spirito pratico qual era, non giudicava la cosa essenziale. Se Anna amava il bello sconosciuto più di Gilbert, non c'era più nulla da dire. Ma la signora Linde aveva il terribile sospetto che Anna facesse l'errore di sposarsi per denaro. Marilla conosceva troppo bene Anna per sospettarlo, ma avvertiva che qualcosa nel disegno generale era andato amaramente storto. Quel che deve essere ha da essere, disse tristemente la signora Rachel. Quel che non deve essere talvolta accade. Non posso impedirmi di pensare che stia per avvenire nel caso di Anna, se la provvidenza non interviene. Che diamine! La signora Rachel sospirò. Era dispiaciuta che la provvidenza non fosse intervenuta e quanto a lei non osava far nulla. Anna era scesa fino alla fontana delle Driadi e si era raggomitolata tra le felci, alle radici dell'alta betulla bianca presso cui lei e Gilbert si erano tanto spesso soffermati nelle passate estati. Gilbert era tornato a lavorare per il giornale quando l'università aveva chiuso i battenti e Avonlea sembrava vuota senza di lui. Non le scrisse mai. E Anna rimpianse quelle lettere mai scritte. Roy invece le scriveva due volte alla settimana. Le sue lettere erano squisite composizioni che avrebbero ben figurato in un memoriale o in una biografia. Anna non si sentiva mai tanto innamorata come quando le leggeva, ma il suo cuore non ebbe mai quel bizzarro, rapido e inspiegabile tuffo alla vista di una sua lettera che ebbe invece il giorno in cui la moglie di Hiram Sloane le porse una busta con l'indirizzo vergato dalla grafia netta e diritta di Gilbert. Anna era corsa a casa nel suo rifugio sotto il portico e l'aveva aperta avidamente, per trovare soltanto una copia battuta macchina di una qualche associazione universitaria. Anna lanciò attraverso la stanza un'innocua geremia e si apprestò a scrivere Roy una lettera particolarmente affettuosa. Diana si sarebbe sposata tra 5 giorni. La casa grigia di Orchard Slope era tutto un fermento di lievitature, bolliture, infornature, stufature. perché sarebbe stato un grande matrimonio alla maniera antica. Anna naturalmente era damigella della sposa, secondo gli accordi contratti quando avevano 12 anni, e Gilbert sarebbe arrivato da Kingsport per fungere da testimone. Anna avvertiva con gioia l'eccitazione dei preparativi, ma in fondo provava una stretta al cuore. Stava in un certo senso perdendo la sua vecchia amica. La nuova casa di Diana distava 2 miglia da Green Gables e la vecchia amicizia non sarebbe stata più la stessa. Anna alzò gli occhi sullo splendore di Diana e pensò a quante volte si era profuso per lei, inondandola della sua luce. Presto, tuttavia, non si sarebbe più irradiato intorno nei crepuscoli d'estate, non più lì comunque, non più a Green Gables. Due grosse lacrime di dolore le scivolarono lungo le guance. Oh, pensò, com'è terribile pensare che le persone crescono, si sposano e cambiano.